parco ci memoria si diverta, d'opporsi i miei piacevoli progressi, fanno mal tutti quanti. A cuore idolo mio, son vari pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni? Mancava questo intoppo. Amico, dentro il cuore ritrovo, avete cuore, avete anima generosa. A vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa, che domanda perché? Bisogna abbiamo del vostro vincenzo. Ritorna al teatro il corpo. Comandate i congiunti parenti questa man, questo ferro, i piedi il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella domanda, perché così piangete? Il crudele che fu, che osò la calva turbar del viver vostro. Thank you. braccia, i passi suoi voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonatissima donna, se servirvi possi io. In mia casa m'aspetto. Amici, addio. D'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.